Pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, una nuova poesia del poeta Luca Sardo Giambonino, dal titolo Ombrelli. Giornate di pioggia s'alternano al bel tempo, ma è meglio così. Per le strade della mia città amata compaiono gli ombrelli colorati e tutto sembra un po' diverso dalla solita torrida estate. Freschi venti impetuosi ci fanno infine visite e tutto cambia. Basta così poco a mutare la realtà che impossibile sembra ai miei occhi di poeta lastricato di cristallo.